buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci può un po' spiegare qual è la situazione in questi giorni da un punto di vista giuridico dei ragazzi tunisini che sono arrivati? Com'è la situazione anche dentro alla caserma? Ma diciamo che la situazione dal punto di vista giuridico è praticamente impossibile da collocare, nel senso che lo status di queste persone e il titolo in base al quale sono sostanzialmente private della libertà personale in questa struttura come altre sul territorio nazionale è un'incognita, perché se questi soggetti venissero qualificati come richiedenti asilo, insomma, sapremmo in che casella giuridica, in che, diciamo, ambito di diritti e doveri collocarli. Se questi soggetti fossero stati individuati come irregolari e quindi destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera, anche in questo caso sapremmo più o meno quali sono le garanzie, gli obblighi e, come dire, gli sviluppi giuridici individuali della situazione. Questi soggetti sono semplicemente trattenuti, di fatto privati della libertà personale, senza nessuna norma giuridica che si riesca ad individuare a fondamento di questo e soprattutto senza nessun provvedimento individuale che spieghi a ciascuno di loro la ragione in base alla quale sono trattenuti, quali sono i tempi, qual è il controllo di legalità che può essere fatto su questa situazione, qual è l'autorità giudiziaria che può vigilare sulla loro condizione e così via. È veramente un limbo che non avevamo mai sperimentato prima. Sì. Per quanto riguarda invece l'ulteriore confusione che si è creata in questi giorni rispetto alla decisione di Maroni di dare dei permessi di soggiorno temporaneo, si hanno delle indicazioni? Ma allora, il punto è questo, che il fondamento normativo di questo decreto del Presidente del Consiglio, che sembra sia già stato firmato, io ancora non l'ho letto, non credo sia formalmente pubblicato, è in una norma del testo unico immigrazione che appunto prevede che in caso di calamità naturali, emergenze umanitarie, insomma situazioni di questo genere, possono essere concessi dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, appunto, diciamo questa dizione generica e se vogliamo un po' flessibile. Sì. Ora il punto è questo, diciamo c'è un'incognita sul piano della gestione di tutta questa macchina amministrativa sui tempi, perché è evidente che se in pochi giorni venissero dati questi permessi di soggiorno i soggetti attualmente trattenuti riacquisterebbero la libertà e quindi questa situazione di limbo che io denunciavo verrebbe meno e quindi, diciamo, potremmo, come dire, vedere uno smorzarsi, no, dei profili di criticità più acuti. Poi, diciamo, anche in seguito alla concessione di questo permesso di soggiorno, però si continuerebbero a presentare una serie di problemi. Sì. Cioè, che cosa significa? Questi soggetti, una volta che prendono il permesso di soggiorno, sono abbandonati a se stessi, viene meno un obbligo di assistenza, quindi si aprono i cancelli della caserma De Carolis per rimanere al nostro caso e circolano dove vogliono, oppure, diciamo, si aprono i cancelli e questi soggetti però su base volontaria continuano a rimanere lì e ad essere assistiti se ne hanno bisogno. Insomma, ci sono dei problemi sulla gestione del dopo. In particolare c'è questa guerra fredda che praticamente sembra scoppiata fra l'Italia e la Francia. Sì. Sulla quale, insomma, in effetti c'è forse da fare un po' il punto di quali sono le norme del trattato Schengen e dei regolamenti che disciplinano un po' questo discorso dell'attraversamento alle frontiere. Perché, diciamo, prima dello scoppiare di questo caso, sì, c'era la sensazione, no? Cioè si diceva che in modo pressoché automatico il permesso di soggiorno consente di circolare per brevi periodi all'interno di tutto il territorio dell'Unione. E questo è vero, però le convenzioni e i regolamenti prevedono dei temperamenti, delle eccezioni che naturalmente quando scoppia l'emergenza, no, diventano la regola, cioè nel senso tutti gli stati fanno ricorso a quello che trovano nelle pieghe dei regolamenti. Allora la situazione è la seguente, che di regola i controlli nelle frontiere interne Allora, per frontiere interne e esterne intendiamo, no, i luoghi in cui l'Unione si interfaccia e si espone verso l'esterno. Quindi per quel che riguarda l'Italia, naturalmente Lampedusa è una frontiera esterna dell'Unione. Tra l'Italia e la Francia è una frontiera interna che di regola non dovrebbe esistere più, non è possibile effettuare controlli, se non, dicono i regolamenti, per motivi, diciamo così, di ordine pubblico. E fino adesso noi abbiamo trovato applicata questa eccezione in caso di manifestazioni politiche, di dimostrazioni e cose di questo genere. La Francia invece ha ristabilito questi controlli alla frontiera, sì, con una procedura che insomma presumo sia legale, perché deve essere, diciamo, notificato alla Commissione, a tutti gli stati interessati, deve essere circoscritta nel tempo, di 30 giorni in 30 giorni rinnovabile, e poi istituire dunque i controlli alla frontiera, e questo è quello che sta accadendo in concreto. Ora, i controlli alla frontiera non vuol dire che automaticamente questi soggetti, una volta che avranno il permesso di soggiorno e che tenteranno di passare da 20 miglia a qualcosa di simile, dovranno essere respinti, perché comunque la possibilità di circolare per turismo esiste, soltanto che bisogna possedere una serie di requisiti. Insomma, più o meno sulla stampa sono usciti e mi sembra che la situazione sia stata descritta correttamente. Serve un permesso di soggiorno, e qui lo avremo, serve un passaporto, quindi questi soggetti dovrebbero, molti di loro non ce l'hanno, però insomma dovrebbero, diciamo, ottenere la cooperazione da parte del consolato tunisino in Italia per ottenere un titolo valido per l'espatrio, e poi c'è il punto dolente, dovrebbero dimostrare il possesso di risorse economiche, cioè 60 per poter euro. Come? Quanti sono indicati? Allora, ogni paese, diciamo, ha le sue tabelle. Io adesso ho qui di fronte agli occhi, per quanto riguarda la Francia, è considerata in una percentuale dello SMIC, del salario medio intercategoriale, e con stime, diciamo, che io ho ferme al 2003, quindi diciamo dobbiamo immaginare un po' di aggiornamenti, sono 50,40 euro al giorno, e che si riducono a 25 euro rotti se questi soggetti che chiedono di valicare la frontiera dimostrano di avere un'ospitalità, un indirizzo che insomma gli permette di prescindere dalle spese di alloggio. E dunque questa è un po' la situazione, dovranno dimostrare in qualche modo se veramente questi controlli continueranno, insomma, ad essere in piedi, ad essere penetranti, controlli che naturalmente non si potranno indirizzare solo sui tunisini, dovranno riguardare tutti, insomma, gli italiani che volessero andare a sciare a Brianzon dovranno portarsi il contante in tasca, perché altrimenti non si passa, naturalmente non è che si può fare un controllo, no, su base etnica. Insomma, questi sono i requisiti economici, che se la situazione rimane tale è evidente che chi ha come meta la Francia o altri paesi europei si dovrà apprezzare di conseguenza. Sì. E insomma, avvocato, noi la ringraziamo per questo intervento, la salutiamo e magari ci risentiamo nei prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti. Va bene, grazie volentieri. Ciao a tutti. Ciao.